Vuol dire da una parte che la redazione della Zanzara sono quattro ragazzini che giocano a ping pong in redazione quando non c'è Cruciani, quando arriva lui si unisce pure lui a giocare e passano la giornata ad ascoltare così Radio Padania. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sono Richard Benson. Facciamo un delirio! Tu sei una pezza di merda, sei. Pezza di cazzo, guarda, sei un pazzo, guarda che tu finirai male, coglione che sei altro, guarda. Niente, allora volevo dire che questo spada di fuoco, opaco, che già rotto i coglioni, perciò vuoi prendere la valigia e il cartone e tornare da dove è arrivato. Anzi, volevo consigliare a quel mezzo supposto di Parenzo di investire i suoi soldi comprando una barca, però lui dovrebbe fare al contrario, portarceli fuori dalle palle. Ma vai a fanculo, va! Guarda, tu vai avanti ancora così a offendere i muslimi, no? Tu vai ancora così a offendere i musulmani. Miserabili! Dai cazzo! Allora ragazzi, iniziamo in questo modo. C'è un'azienda di pubblicità, un'azienda che commercializza acqua e non solo, naturalmente, che si chiama Rocchetta, sì. La famosa pubblicità della Brio Blu, che pare da quello che leggo, poi non voglio per carità danneggiare nessuno in questo caso, che abbia fermato gli spot che riguardano Flavio Insinna, cioè gli spot, sì, ti giuro. Gli spot pubblicitari con Insinna dentro, famosi spot sul Brio Blu, eccetera, sono stati fermati. Tutto questo per i fuori onda in cui Insinna dà della nana di merda a una concorrente di affari tuoi. Allora, Insinna ieri è stato dalla Berlinguer, sono stati 45 minuti. Sarebbe clamoroso se poi questa azienda mettesse la pubblicità su Striscia la Notizia, diciamo. Ma non lo so, adesso questo sono cazzi loro. Io sì, dico. Però capisci che il signore Insinna non è colpevole assolutamente di nulla e non si capisce perché. Allora, io dico semplicemente una cosa: ognuno è libero di fare quello che vuole, le aziende possono mettere i soldi dove vogliono, possono stoppare gli spot, ci sono le clausole, quello che volete. Figuriamoci. Ma cosa ha fatto alla fine Insinna? Ha stuprato? Esatto. Ha ucciso? Ma ha violentato? Bravo, esatto. Ha fatto qualche reato? No. Però aggiungiamo anche un'altra cosa, che questi qua se ne sbattono di tutte le nostre discussioni su fuori onda, sì, intercettazioni. Non vogliono cosa che il loro vedono? Nome sia associato a che sia associato a uno che dà la nana di merda a una concorrente. Come è uscito nana di merda? Ma lascia perdere, come è uscito nana di merda? Non gliene frega niente. Non gliene frega nulla. Sì. Questa è la realtà. La realtà, purtroppo, lo dico anche a Flavio Insinna, che non conosco, che ho sentito una volta per telefono l'anno scorso. Io lo dico, caro Flavio, ormai è quello che è successo, perché ormai purtroppo la situazione è questa. Cioè, alla gente del fatto che tu sei stato tra virgolette intercettato, che ti hanno rubato un'aggressione, non gliene frega nulla, zero. Quello che rimane è il fatto che tu hai dato della nana di merda e che hai insultato i concorrenti, hai trattato a male parole i concorrenti. Per me è normale che sia accaduto, per altri no. A questi qua di questa azienda nemmeno, e hanno sospeso lo spot e vabbè, che vuoi fare? Per me è una follia, uno dovrebbe avere le palle per dire a noi non ce ne frega niente di quello che è uscito fuori lì, andiamo avanti. Bravo. A spada tratta, andiamo avanti. Detto questo, ieri 45 minuti di difesa di Insinna dalla Berlinguer, amici miei, ci stava. Sì, vabbè, l'avremmo invitato anche noi. Ma sì, ma a me che me ne frega, a me che me ne frega di sapere che lui è legato a Emergency, che fa la solidarietà. Vabbè, il personaggio, ma di che pare, sì, ma non c'entra un cazzo. Cioè, che a me che me ne va benissimo, fa bene farlo. In questi giorni è uscito un profilo di questo uomo che sembra incredibile, invece lui è una persona molto molto per bene. Ho capito, ma che c'è, non è che uno è per bene perché fa solidarietà a Emergency. Ma no, ma non solo per quello, ma non è una persona che insulta i nani. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra questo? Non c'entra nulla. Comunque, ha fatto benissimo andare dalla signora. Vado dove ci sono, ma non questo che c'entra. Vado dove ci sono gli oppressi. Ecco. Vabbè, ma che vuol dire? Dice non vuole fare politica. No, lui dice non farò politica. Prima dice che forse voleva fare politica, poi dice non farò politica, vado dove ci sono gli oppressi. Va. Che vuol dire vado dove ci sono gli oppressi? È un signore che usa la sua notorietà anche per fare delle campagne civili. Ma vi sembra una cosa bella questa? Ma io non ho detto che è brutto o bella, a me non mi interessa. Dire, dico che non ci interessa, Bono, non è questo il punto. Ma se non lo ci interessa. Bono, se Bono fa i concerti per la fame del mondo, ma non tu ce dici, ne frega niente. Se ne frega no, di Bono. Ma non ce ne sono personaggi che usano giustamente la loro. Tu usi la tua notorietà per parlare di squirting. Lui usa la sua notorietà per stare dalla parte degli oppressi e stare con Emergency. Ma in questo caso non ce ne frega nulla, non è l'argomento, capito? Ma io servo da fuori da battitore libero, andando ad aiutare dove serve, andando dove c'è bisogno, lo ripeto, dove ci sono gli oppressi, quelli senza soldi, quelli che io manco dovrei guardare. Lo sai cosa mi fa ridere, ma allo stesso tempo mi fa tristezza? Dar tuo pulpito è facile, aiuta. Allora dico aiuta te, io non c'ho i soldi, io ce l'ho e posso aiutare. Chi deve aiutare? Il migrante che arriva? Ditemo voi. Non voglio entrare in politica, ho una squadra di basket in carrozzina. Sì, ma non è che le due cose sono in contraddizione, ma chi se ne frega? Cioè, il punto non è questo, il punto è un altro. Cioè, a noi non ce ne frega niente che Flavio Insinna ha la squadra di basket in carrozzina oppure faccia solidarietà. A noi non ci importa nulla di questa roba qua, non ce ne frega niente. Il punto non è questo, a noi ci piace Insinna come conduce le trasmissioni, che fa il conduttore televisivo. Ma il fatto che lui non me ne frega niente, non è interessante. Non sociali. È interessante, che non me ne... Ma alla gente non è interessante. Vabbè, d'accordo, allora è interessante, vabbè. Non voglio entrare in politica, lo sai Tommaso, perché io ce l'ho già la mia politica. Ho una squadra di basket in carrozzina che non c'è il campo, non ce l'ha, dove giocare lo devo trovare, da qui a settembre riscriverci al campionato. Ho i disabili, ho i malati, ho Emergency, ho Sant'Egidio, allora, siamo sentiamo, già pieni, grazie. Allora, caro Parenzo, a proposito di Berlusconi e del suo neoanimalismo, devo dirti una cosa. Oggi è uscita una notizia molto interessante. E magari lo smentirà Berlusconi. Una delle aziende in cui Fininvest ha del capitale, un'azienda che non mi ricordo come si chiama, pare che finanzi la ricerca sugli animali, la sperimentazione animale. Ottimo, siccome lui lodevole. Ha detto assolutamente, per io me sono lodevole. Favorevolissimo alla sperimentazione sugli animali, sono favorevolissimo alla sperimentazione sugli animali. Siccome Berlusconi ha detto che questa cosa qua bisogna ridurla, la Brambilla, che è il capo di questo partito animalista, ha detto di essere contro più volte la sperimentazione sugli animali, forse c'è qualcosa da chiarire. O no? Forse sì, c'è qualcosa da chiarire. Ma non trovo una contraddizione che come una no, delle tu fai aziende il partito del animalista suo e gruppo. Poi fai la sperimentazione animale, poi no, contribuisce alla sperimentazione animale. Un momento. Il fatto che una delle aziende. No, ma è una partecipata. Cioè sono ha investito ma Davide, alcuni ma non soldi si può in un'azienda fare, del gruppo. No, non si può fare, come dici tu, il frocio col culo degli altri. Dai, su, non puoi fare. Non ma puoi lui non è contro la sperimentazione. E allora non puoi fare il partito animalista. Allora non sei nel partito animalista. Ma io quando... non penso che la signora. Come Maria no? È contro Vittoria la sperimentazione sugli animali. Sia contro tu cur la sperimentazione sugli animali. Sì. E allora mangi il fieno. E allora quando si ammala, mangi le carote del prato. E allora non si curi con i farmaci. Sì, ma stiamo io non parlando penso di Berlusconi, che... però. Sì, ma io non penso che la Brambilla sostenga contro... che in qualunque caso non si può sì, fare la sperimentazione. È contro la sperimentazione animale. È contro la sperimentazione animale. Allora è una follia. Feltri, a Roma ci sono gabbiani alti come Brunetta. E questo l'ho detto. Beh. Senti. Sì, ma non ci sono solamente i topi, ma ci sono anche dei gabbiani pazzeschi che sono alti come Brunetta, insomma, fanno paura. Io quando incontro un gabbiano vorrei sparare, cioè non si può, purtroppo così. Contro un gabbiano vorrei sparare, purtroppo ma non niente, si può. Ma vado via, vado, sono vado per sempre grato a Berlusconi perché mi ha fatto diventare ricco, appunto. Perché stare perennemente grato a Berlusconi? Sì, perché mi ha fatto diventare ricco. Ah. Mi sembra un buon motivo per avere gratitudine. Allora, Allora ti segnalo, caro Parenzo, che Ramon Zurita, che è quel dipendente della Lidl, operaio, operaio che tu hai combattuto della Lidl, l'unico operaio, Lidl. Che, un operaio che ha ingabbiato una rom, sì, cioè, per scherzo, per scherzo. Però ti segnalo che questo signore Ramon Zurita, sì, ha pubblicato un video sul suo profilo Facebook in cui, sì, fa colazione tranquillo, beato, con la stessa rom, con la stessa rom che ha, come dici tu, ingabbiato, facendola gridare dentro la bene, famoso, ma questo non c'entra col provvedimento reparto del... Ma no, la Lidl si è sentita, questo sì, la ti fa Lidl capire si è... come sia una buffonata. Andavano d'amore, so d'accordo, quella rideva la rom, rideva, ma la Lidl la rom ha ritenuto quell'episodio ma, contrario ma... alla propria mission ma aziendale. Ma come mai sei dalla parte delle aziende in questo caso? Come mai ti metti dalla parte delle aziende? Non voglio fare macelleria sociale di aziende come fai tu. Non voglio dare una rappresentazione vergognosa. È un paese bello l'Italia, è un paese forte, è un paese grande, ma un paese che ce la farà. Scusa. È un ce la faremo, ce la faremo a uscire dalla crisi. Ma ce cosa la faremo... cazzo c'entra? No, scusa. In generale dico, è un paese che ce la farà. È un paese ma bello. Ma cosa c'entra? È un paese che non parla ogni giorno di squirting. Voglio dirti anche questo. È un paese nel quale ogni giorno, anche se oggi ero in treno, venuto... sai che stamattina ero a Milano, poi sono tornato subito a Roma, devo fare non una so, roba. In treno sono stato abbracciato non da lo un ragazzo, sapere, un ragazzo di 19 anni che mi ha detto grazie. Dico prego, perché? Perché ho imparato cos'è lo squirting. Dico ma ragazzo mio, ma perché? Bravo, devo molto ringraziare bene, molto bene. Vergognati, ho detto, vergognati, non molto ascoltare bene più la zanzara. Dice no, guarda, ti devo ringraziare perché ho imparato questa cosa che per me bravo, è importante. Bravo, lui ottimo studia ingegneria. Dovresti essere orgoglioso di questa ingegneria cosa qua. All'università, ha voluto farsi un selfie e mi sono non rifiutato. Non eri orgoglioso? Con uno della, no, io, perché non era della maggioranza silenziosa. Allora gli ho detto guarda, fatti il selfie con Cruciani. Con me no, io non sono un cultore di questa pratica di cui tu parli. Mi fa piacere che sia servita questa trasmissione, vabbè, ma non mi faccio il selfie fermo, con te, scusami. Allora, se il Sinna ha chiamato quella nana, Parenzo, tutte le sere dovrebbe far arrestare tutti. Parenzo, tutte le sere lo chiamano nano e non dice un cazzo. La zanzara. Cruciani, ho un dilemma. È meglio sposare una donna ricca che non squirta o una donna non ricca ma che squirta 2-3 litri di acqua a rapporto? Contribuisci anche tu. Regala lo spazzolino elettrico a Parenzo donando il tuo 5 per 1000 nella prossima dichiarazione dei redditi. Lo squirt è per tutti. Allora ragazzi, adesso vi faccio sentire lo sbrocco di Sgarbi l'altro giorno al Consiglio Comunale di Urbino. Nessuno sa che, o pochi sanno, che Sgarbi è assessore a non so che cazzo, a Urbino. Sì, a Urbino. A un certo punto se la piglia, siccome viene accusato di non esserci mai, di fare pubblicità, sì, al suo movimento politico, che non gliene frega un cazzo di Urbino, che non ha fatto manco una mostra, eccetera, eccetera. Questo è facile, se però la prende con uno del PD che si chiama, sì, Scaramucci, un consigliere comunale locale, uno no, non particolarmente conosciuto, diciamo. Vabbè. No, un titolo si chiama Scaramucci. Vabbè, Scaramucci. Scaramucci. Gli dà del rotto in culo, faccia, ecco, di merda, stronzo, eccetera. Sentiamo qualche cosina, qualche piccolo assaggio. Sì, sì, non si sente benissimo, però. Sentiamo quello che si, come dire, che si riesce meglio a percepire. Sentiamo. Il vostro appoggio a Aufreiter contraddice la legge. Voi non sapete cos'è la legalità. È la legge, caro assessore rotto in culo. Ancora. Ma perché? Quelle amministrazioni, compresa quella di Fabiano, in cui mi sono presentato, il mio nome non c'è, la parola di nascimento è di dominio pubblico come democratico. Noi siamo il Partito Democratico e voi siete delle facce di merda. Perché? Poi dice facce di stronzi. Ma perché? E magari anche un contributo del comune, perché il comune ha dato un contributo anche a quel depensante, che per di più contro i comuni non ha avuto il biglietto unico. Facce di stronzi. La mozione, si parla di cose locali di cui non importa nulla a nessuno. La mozione mettetevela nel culo. Voi siete contro la legalità, siete fuori legge difendendo questo incapace, che oltre ad essere incapace è fuori legge. Ma non è colpa di nessuno, è colpa della legge. Quindi questa mozione ve la dovete mettere nel culo, sempre quel culo di prima, ecco. Detto questo, che sono la campanella, guarda, cosa pazzesca. Allora, vai, dove andiamo? Andiamo, sì. Andiamo a Pietro Varese, vai. Ciao Pietro. Dimmi, dimmi. Sì, ciao Cruciani. Volevo, se mi dai due secondi, volevo spiegarti come mai Parenzo è il nuovo Beautiful Mind italiano. Cioè? Te lo ricordi il film di Russell Crowe, sì, interpretava no. Nash? Sì. Allora, è un genio, Nash. Sì, esatto, assolutamente. Sì. Però vedeva un mondo che non esisteva. Sì. Ah, Parenzo cosa fa? Cita Sartori per dimostrare che la open society funziona. Sì, però Soros è quello. Dai ragazzi, però calma, di che vuoi parlare, Pietro, dimmi. E volevo dimostrarti che Parenzo è una beautiful mind, cioè vede un mondo che non c'è. In che senso? Nel senso, allora lui dice, la società aperta funziona, bisogna eliminare lo Stato-Nazione. E cita Sartori. Sartori nei suoi libri scrive che l'Islam non è integrabile perché, avendo una visione teocratica della società... Pietro, fino a quando deve durare questa lezione? Alle 18.53, fino a quando deve durare questa roba? Ah, guarda, se vuoi che dura poco, basta che you kiss my ass e finiamo la telefonata così, no? Basta che, non ho capito? Che you kiss my ass. Ah, e la telefonata finisce così. Non sì, ma non ho capito, che cosa vuoi dire in sostanza? Spiegami. Che Parenzo vede un mondo che non c'è, cioè? La maggioranza silenziosa che lui dice che ritiene che siano della sua parte lo mandano a fare in culo. C'è il suo pseudo filippino che lo chiama dottore e lui non è laureato. È molto... è laureato. Ma il filippino è rispettosissimo. Quindi vede un mondo che non esiste, una società nel quale lui non si ritrova ma pensa di ritrovarsi. Dottore molto colto e plepalato, telefona miselabili un poco coglioncione. Absolutely, my friend. Vedo che sei comunque molto molto aperto e comunque il tuo cliché è sempre lo stesso: insultare le persone. No, insultare non dipende. Questo non ero io, ero il filippino. Non è un problema. Citi Stiglitz e non hai letto Stiglitz, neanche un libro. Assolutamente. Pieno. E non hai letto neanche un... Parenzo, non sai la differenza tra un government bond e un bond strutturato? Ce ne sbattiamo i coglioni, allora, questo è il punto. Te lo spiego non subito. Ma c'è, Pietro, forse non hai capito bene, che però ce ne sbattiamo anche subito. I coglioni di questa roba qua. No, non qui. Devi spiegare nulla. Cioè, Vincenzo da Brescia. È un bond strutturato, no, vi mando a fare in culo tutti e due. Vincenzo schifoso. Da Brescia, vai. Vincenzo. Dunque, l'obbligazione non me ne frega niente. Vincenzo da Brescia, dai. Sì, ciao, dimmi. Cruciani. Dimmi. Niente, ti volevo dire che io sono un camionista, no? Sì. E la maggior parte delle volte, questo mi succede d'inverno, sì. Quando arrivo nella maggior parte delle tangenziali d'Italia, sì, sì. Oppure che magari che c'è traffico, sì. Sopra il camion, sotto nelle macchine, quando è inverno ed è buio, a questo orario qui, vedo Radio 24 sul display, no? Sì, allora? Nella maggior parte delle macchine, credimi, Sì, sì, meno male, allora? Capisco che avete, ma tanti, vabbè, allora? Appassionati. Voglio capire una cosa, no? Che vuoi capire? C'è tanta gente che chiama, alcuna chiama e non può parlare perché i tempi sono quelli che sono. La maggior parte della gente, come questo di prima, viene dicono di tutti i colori a Parenzo. Vabbè, Vincenzo, ci sentiamo dopo, Ciao, ciao. Ciao. Signora del Santo, sa che cos'è lo squirting? Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. Cos'è lo squirt? Quel ballo dove muovi il sedere. Cruciale, dimmi cos'è sprint. Quel ballo dove muovi il sedere. Perché? Ho sbagliato? Quello che ti muovi convulsamente. Convulsamente. Quel ballo dove muovi il sedere. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. La zanzara. Ragazzi, è semplice. Se vi state immaginando Parenzo messo a pecorina da Luciano da Roma, o volete dire che Parenzo è gay come Macron, o volete andare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece volete parlare dei vostri scaccolamenti nasali, o volete segnalare la gradazione del vostro pene a manico d'ombrello, o volete andare a cagare Parenzo in differita, 393 7171 701. Siamo al alto. Siamo al top, all'icmo salama. E intanto continua la guerra, sì, tra Parenzo e un nuovo ascoltatore, il camionista romano, soprannominato dal sottoscritto Romanesco. Senti. Hai visto, caro Parenzo, ad augurare agli altri di guardare prima a sinistra e poi a destra quando che attraversano? Hai visto? Mi auguravi qualche cosa, a me invece te la sei presa andar culo te. Che davanti il culo, capito? Scemo! Successo con i Roma? Meno male, ti è successo un incidente, c'è solo il collare. Ma te dovevi dare qualche altra cosa, non solo il collare, come minimo te dovevi rompere la gamba, capito? Guardaci te prima a destra e poi a sinistra, se manco buono a portare la macchina, ma fattene a fanculo. Come mi dispiace che ci hai avuto l'incidente, come mi dispiace, arrivattene a fanculo, imbecille. Io sono affascinato, caro David, dal modo in cui questo signore qui pronuncia il vaffanculo. Cioè c'è modo e modo, è quasi meglio di quello di Grillo. Ma va, tu è ritmato, capito? Cioè ti piace musicalmente la sì, mi piace musicalmente. Io gli farei una telefonatina, che dici? La facciamo la telefonatina o no? Secondo me non anche gradisci, no. Tu non secondo gradisci. Secondo me anche no. No, perché questo poi diventa pesante, insulta, fa, eccetera, comunque sentiamo, dai, sentiamo. Vediamo, proviamo. Sì, pronto. Amico mio, non ti, puoi, non ti puoi augurare l'incidente a Parenzo con la macchina? No, no, io non me auguro, ma era lui che se lo augurava per me, capito? Ma no, non credo. No, no. Guarda prima a sinistra e poi beh, a quello destra. È vero, questo è no, vero, questo oddio, è vero. Non auguro. Lui. Non auguro. Io gli ho mandato anche un altro messaggio dicendogli guardaci bene te, caro infatti, Capoccetta. E infatti è Capoccetta lo può dire tranquillamente alla sua adorata mogliettina, Capoccetta. No, vedi, allora senti, guarda, mettiamo le cose in chiare. Senti, in chiaro? In chi? Chiaro, mettiamolo subito questo. In chiaro, parliamo io e te, lascia perdere parenti, morirete e quello e quell'altro, perché sennò te ricomincio a quella mignotta di tua moglie, e a quella, sia la prima che alla seconda. Hai capito? Vattene a fanculo. Allora, io ti consiglio di guardare dentro l'armadio stasera quando torni. Io ti consiglio di guardare dentro l'armadio a vedere chi ci trovi. Ci trovi un esercito di profughi, ci trovi. Io ti consiglio di guardare dentro l'armadio. Ci trovi un esercito di profughi. L'esercito ci trovi. Tutta la curva sud e tot. Lasciali stare. A casa tua. Dentro l'armadio. Fermo. Tutta la curva sud. Che ti ha detto che è tua madre. Tutta la curva sud ci trovi. Ma ragazzi, fermi. Ti ha detto che tua madre stava a dirige un bordello dove ce l'hanno gli amici tuoi, i necroni col cazzo grosso, con la spada di fuoco, capito? Ma perché? Quando sei nato, capito? Non c'erano gli anticoncezionali. Ma perché? Ma aspetta, non c'erano anticoncezionali, vero? Perché ce l'hai tanto comparato? La 194 non c'era ancora Parenzo, all'epoca, vero? Che pezzo di merda! La 194 capito? Non c'era ancora, vero? Sì, porella che non ha potuto applicarla, porella, guarda. Io voglio capire una cosa. Vabbè, cambiamoci un attimo. Ma scusami, non c'è la pillola del giorno dopo. Aspetta, fermo, fermola, fermola. Io voglio capire che... Vabbè. Ma perché è così avvelenato con te questo qua? Perché? Perché però posso così dirti che la cosa non mi cambia le giornate. No, cioè non perché è, questo dice, qua, questo camionista è così avvelenato? Cose, perché? Ma non lo so, perché? Ma è una di, vabbè che non ha niente da fare. È una di quelle cose che mi cambia l'umore. Dice, no, ma io sarei preoccupato se questo qua ti vuole addirittura mettere sotto, capito? Cioè tutto è nato dal fatto che addirittura ti vuole mettere sotto. Beh, Francesco Salerni mi scrive spettacolo quando parli romanesco, ad esempio. Vabbè, comunque. Chi è sto non posso dire per quale banca lavora, ma è un importante dirigente di una banca, insomma. Non dico il nome perché sennò sembra una... Allora, per la notizia di oggi, ragazzi, è un'altra. La notizia di oggi è un'altra. È la testimonianza di Severino Antinori davanti al Tribunale di Milano. Oh, questo è importante. La cosa incredibile. Severino Antinori, come sapete, c'è un'accusa da parte di un'infermiera spagnola di averle rubato degli ovuli. Degli ovuli. Come si difende? Ma come si fa a rubare degli ovuli? Come si difende Severino Antinori? Come si difende? Ho conosciuto la ragazza in un club di Siviglia nel dicembre 2015, dove vi venne presentata da un'amica. notai subito che aveva una forte attrazione per me. Cioè la 25enne spagnola con Severino Antinori, e dico Severino Antinori, vabbè, in un club di Siviglia. No, per carità, però comunque sai, cioè, cosa ci faceva in un club di Siviglia? E che cazzo ci faceva là, amico mio? Notai subito che aveva una forte attrazione per me. Mi prese per mano e mi portò nella mia camera di albergo. Lei voleva avere un rapporto. Io inizialmente rifiutai, ma lei insisteva. Così dopo qualche ora mi sono sentito costretto. Dopodiché l'ho mandata via dall'hotel pregandola di non richiamarmi. È chiaro, ti prego, vai via. Una sera ero con la mia compagna di allora all'hotel Marriott dove soggiornavo. Senti, la spagnola è entrata nella mia stanza e mi ha tirato giù i pantaloni. Io ero infuriato. Oh, mamma. Poi mi accorsi che mi erano spariti un orologio Rolex 700 euro. E lei era molto attratta dai Rolex, se aveva bisogno di soldi. Mi chiedeva tutti sempre denaro. Una volta mi supplicò dicendo che sua madre stava morendo. Le diedi 2000 euro. Bravo. Ah, raga, amico. Ma come si può? Cioè, ma questo è Taormina, il genio è Taormina. Ah, il lui genio dice è Taormina, ma certo, l'avvocato. Tutto. Ma certo, mi ha costretto a un rapporto sessuale. Ma è evidente, mi ha costretto la ragazza, un poco di buono di Siviglia, dai, che è un classico. Marco da Pescara, vai. Ciao, sono Marco, finalmente posso intervenire in trasmissione. Io Dimmi. Voglio dire una cosa, adesso a Montesilvano hanno sgomberato 5.000 africani in questo momento, cioè la polizia antisommossa, la situazione è totalmente degradata. Allora, spaccio, dove poi questo? Merce che viene venduta a Montesilvano? Sì, ma ragazzi, ma chi se ne frega però? Ma allora, qual è il punto? Marco, qual è il punto? No, la è questa, che comunque io non posso, mi chiedo anche a Parenzo, persona intelligente, possiamo accettare un'invasione Se e senza ma? Ma dov'è l'invasione? Cosa vuol dire invasione? C'è semplicemente una male gestione sul territorio, ma non c'è un'invasione? No, allora, mi sono rispondi a questa mia domanda. Quante persone sono più povere di noi in Africa? E quante persone ma ci sono in Africa? Ma cosa vuol dire questa roba qui? Ma no, che vuol dire? No, fai, allora, io dico una cosa. Perché non vai in Parlamento? Ti fai leggere. Fai una legge per cui chi viene dall'Africa automaticamente può fare quello che vuole. Fai la legge, adesso non c'è una legge. Non c'è una, sono 5.000 persone adesso state sgomberate perché abusive a Montesilvano. Allora, turismo, dicevo Pescara, turismo crollato. Ok, crollato. Turismo crollato per colpa degli immigrati. Adesso. Turismo crollato. Turismo crollato aspetta, per colpa degli immigrati. Ma che cosa dice? Mi fai finire il discorso? Posso finire il discorso? Allora, spaccio di droga, poi merce che viene comprata a Napoli, quindi camorra, perché la merce comunque contraffatta. Ma dove? C'è un'indagine, leggete Marco, giornale. Senti, c'è ciao, un'indagine. Jacopo d'Ascoli, dai, no, Jacopo, no. Dai, ciao, Jacopo Ascoli, vai. Cruciani. Dimmi. Cruciani, allora, secondo me i musulmani non li devi far parlare, sono persone violente. Che vuol dire non far parlare i musulmani? Io faccio parlare tutti, figuriamoci se non faccio parlare i musulmani. Chiamano e ti insultano. E va bene, ma uno può fare quello che vuole. Figuriamoci, non faccio parlare i musulmani. Sono loro che non fanno parlare altri. Io faccio parlare tutti. Esatto. Infatti, io volevo dire questo: che loro sono un popolo, sono violenti. Ma cosa fate a fare delle generalizzazioni? Ma io non giustifico niente. Ma come si fa a generalizzare così? A dire quelle tutti musulmani? Vorrebbe dire che abbiamo sul nostro territorio 1 milione di violenti, ma non è così. Ma come si fa a generalizzare in questo modo? Lì incominciati a Cruciani, no, tu ti devi stare zitto come ti permetti a parlare. Ma chi questo lo dice anche? Questo lo dicono anche gli ascoltatori italiani. Antonio, sono più maleducati di quello da Napoli, vai. Pronto? Antonio, dimmi. Sì, che è Claudio da Roma, però vabbè, va bene uguale. Sì, Claudio da Roma, io c'ho qua Antonio da Napoli, comunque vabbè, dai. No, va bene, comunque guardi, allora, io ho partecipato a delle trasmissioni riguardanti i pacchi serali con Insinna e ho capito chi è quello che gli ha fatto sta carognata. Me lo tengo per me perché è un autore di quelli, diciamo, che era molto vicino. Non ho capito, lei che cosa faceva lì nella trasmissione di Insieme? Io facevo il pubblico. Faceva il pubblico nelle stesse trasmissioni incriminate? Non nelle stesse trasmissioni incriminate, però vedevo che si comportava in un certo modo con uno in particolare di autore. Sì, ma però ragazzi, fare tutti adesso, anni fa, Ma come si fa? Ma cosa vuol dire questo? Lei ha chiamato per che cosa? Per dirci cosa? Per questo qua. O mi dici nome e cognome, ha un sospetto sul... Io ce l'ha il nome e cognome mio. Non so come si chiama quello, mega io ho detto senta lei come si chiama. Ma scusa, allora che cosa ha chiamato a fare? Che cosa ha chiamato a fare? Perché Insinna è un signore, perché lui lo sa chi gli ha fatto l'infamata. E chi se ne frega? Vabbè, se vuole rivelare chi ha registrato le cose, bene, altrimenti chi se ne frega? No, proprio per far vedere che insomma io... Vabbè, ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. Lasciati un parenzo e alla defecazio non ci penso. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Beppe, guarda, questo è Ramon, quello della Lidl che è stato licenziato. Ha messo adesso una foto su Facebook di lui con la zingara, che non mi ricordo come cazzo si chiama, e fa anche la battuta che trova l'amore con lei. Cioè, di a quelle merde schifose che l'hanno insultato, che era tutta una farsa di sta zingara di merda che fingeva. Porca troia, che schifo, che schifo. Isis, voi ci avrete pure le armi, le autobombe, la nonna in carriola, ma noi ci avemo la zanzara e vi famo un culo grosso quanto un secchio. Luciani, la prossima volta che vieni a cagare nei bagni della Waterhouse, cioè ti metto l'attack nella tavoletta, non sto scherzando, cioè hai rotto il cazzo. Verrò presto, caro amico, verrò presto. Verrò presto a visitare i bagni, a visitare i vostri bagni, perché sono chimica. Semplicemente più puliti dei nostri. Dovresti essere molto contento. Io sono molto attento quando vado lì a pulire poi tutto, a meno che non siano rotti gli spazzolini. Bravo. Per pulire i cessi, ogni tanto li ho trovati rotti. Però alle volte io proprio pulisco perfettamente tutto, cioè sono molto attento. Sai quando resta nel bagno candido, bianco? Sì. No, nella di che sono fatti i bagni? Di ceramica. Resta nella ceramica ogni tanto la traccia di merda, no? Sì, quella traccia marroncina. Ti no? ricordo che ci sono le borse aperte ancora. No, non vorrei che queste notizie turbassero i mercati. Chi è che non ha mai lasciato nella ceramica del bagno delle piccole chiazze marroni? Io, no, la maggioranza silenziosa. Non è vero, no. La maggioranza non lascia tracce di merda nella ceramica dei bagni. Lo ritiene maleducato. No. Io ogni tanto mi succede. Maleducato nei confronti degli altri, perché se è casa tua e vivi da solo, c'è chi viene dopo di te. Sì, ma anche a casa ogni tanto lasciare la piccola traccia. Ma se tu, a casa tua c'è di tutto, non c'è solo la piccola traccia. Ho pubblicato delle foto, peraltro altre ne ho qui in serbo. Non esagerare, ripubblicare di quello che c'è a casa tua. Ma è una questione di rispetto per gli altri. A casa tua fai quello che ti pare, sai, poi sei considerato uno sporcaccione, sei uno sporcaccione. No, però lasciare ogni tanto delle piccolissime tracce marroni, giusto per marchiare il territorio, direi. È brutto, maleducato. No, ma ogni tanto fa anche vita, è anche la vita. Che senso ha un cesso tutto pulito, tutto candido, tutto bianco, una ceramica completamente... Comunque, siccome sono ospite presso la Pricewaterhouse quando vado al bagno, cerco di pulire proprio perfettamente. Bravo, no, perfettamente. Questo ti fa perché onore, di solito cosa faccio? Espleto i miei bisogni. Interessa la gente queste tue porcherie. Poi quando il cesso è ben pieno, tappato. Perché sempre al pomeriggio? Fatto la casa tua la mattina, no? Perché sono qui, mi scappa, faccio. Cioè, quando ho riempito bene. Cioè, non hai un orario preciso di lavoro. No, assolutamente. Diciamo. Quando evacuo, poi a un certo punto prendo la carta, pulisco un po', riempio quel cesso tutto pieno, diventa a un certo punto un'enorme persona. Stappo, no? Schifo, tra carta igienica e feci. Mamma e a un certo punto spingo naturalmente il pulsante. Anche là ci sono grandi discussioni. Bisogna lavarsi le mani prima di spingere quel pulsante, che molte persone spingono. Infatti, io uso la carta igienica. Strappo la carta igienica e tocco con la carta. Sì, certo. Tocchi la cosa lì. Nei bagni pubblici tocco quello sciacquone con la carta igienica. Lo sciacquone con la mano normale io lo faccio. No, ma perché tu sei sporcaccione, ma insomma, comunque viene tutto giù, restano naturalmente intorno alla ceramica dei pezzetti marroni che io però tendo a pulire con grande grande precisione, perché sono Shea Pricewaterhouse e perché poi trovo bagni solitamente molto puliti, rispetto, ripeto, a quelli del Sole 24 Ore, che non so perché, sarà colpa dei giornalisti, non so, sono sozzi, sono luridi. Miserabili! Allora, dalla vostra parte hanno aggredito un giornalista che si chiama Fusco alla stazione Termini, se non sbaglio, sentiamo. Stanno cercando di riprendere quello che succede alla stazione Tiburtina, basta avvicinarsi con le telecamere, l'abbiamo già visto qualche giorno fa alla stazione Termini, è successa la stessa cosa, non si può documentare quello che succede intorno alle stazioni ferroviarie della capitale. Quello che vedete, Alessio! Che cazzo di pezzi di... Quello che vedete è un'aggressione in piena regola. Dai. Comunque ragazzi, diciamo la verità, se vai alla stazione Termini eccetera, dai, e dici e vuoi documentare quello che succede ai migranti o ai barboni, certo, qualcuno si arrabbia, non c'è normale, dubbio, no? Non si può documentare, no, si può documentare benissimo, non c'è lo stato d'assedio. Però la cosa interessante è che ne succede sempre una, perché anche l'altro giorno Poletti e Mussolini, ma che fanno, litigano Poletti e Mussolini, non credo, no? Sentiamo. Tu hai detto Poletti e Mussolini? No, Poletti e Mussolini contro quelli che aggrediscono la troupe, certo, dalla vostra parte. Sentiamo Poletti. Andiamo lì, sempre con molto rispetto, e invece abbiamo in cambio botte da parte di delinquenti che io domani mattina voglio vedere arrestati. Anzi, le forze dell'ordine devono andare lì subito, non possono stare impuniti. In carcere, non arrestati, esatto, che poi il giorno dopo, brava, vengono liberati. Poletti contro Carabue. Carabue. Sai che c'è una strana somiglianza tra Carabue, sì, e quel migrante che è dentro la fontana a Colle Oppio a Roma. Ecco, titolo di libero, La dolce, sì, vita del migrante, ecco, nero. È una vergogna. Vacanze romane e balneari. Vacanze romane è un corno, perché è una cosa bruttissima che si ha fatto libero. E Anita Ekberg e Mastroianni, allora. Vabbè, non è la stessa cosa, però, è la stessa cosa. Il migrante dentro la fontana è come e Anita Ekberg. È come Anita Ekberg, meraviglioso, nella dolce vita di Federico Fellini, che è del 1960. Stupendo, Anita Ekberg, quando gli dice Marcello, come here. Ecco, se il migrante avesse detto Cruciani, come here, tutti scandalo, vuole violentare Cruciani. No, e perché non si dice uguale di Anita Ekberg? Perché Anita Ekberg sì nella fontana del Bernini, e invece il povero migrante non può andare nella... Tra l'altro è un modo per far vivere i monumenti. Cioè questo qui può essere anche un modo per rendere il monumento parte della città veramente. Chiaramente poi non bisogna fare il bagno nella fontana. Dai, è ovvio, perché si rischia di rovinare. Mollo in pieno centro. Ho capito, ma perché Anita Dolce via, mi piace il titolo. Mettessero la foto di libero, mettesse la foto di Anita Ekberg. Ma quello è successo negli anni 60, che cazzo mettesse c'entra? Mettesse la dai. Foto di dice vergogna Anita. Facesse il titolo su Anita Ekberg, allora. Ecco cosa fa Anita, guarda. Ecco cosa fa Anita. Ma che c'entra, dai? Sì, certo. Poletti contro Carabue. La vostra politica di far arrivare tutti creerà ancora più allarme. Mi fate tornare un attimo. Che non sai quello che dici. Guarda. Ah, tu invece sai quello che dici, eh? Ti siedi bello comodo in poltrona. Che non sai quello che dici. A sparare sentenze, bello comodo e pasciuto in poltrona. Gira questo paese. Gira questo paese fin troppo ospitale, che ne ha piene le scatole. E anche di quelli come te. Ormai Poletti è pronto alla candidatura Pasciuto. Per la Lega Nord. Ma perché è Pasciuto? Perché anche l'ottimo Belpietro ci dovrebbe dire cosa c'entra. Francesco da Napoli. Ma fai risentire un attimo anche Belpietro, che ogni tanto si scandalizza pure lui. Perché quando lì è troppo. Pasciuto lì che gira. Beh no, questo cosa c'entra? Questo è troppo. Anche questo è troppo. Anche per Belpietro questo è troppo. Francesco isola per cortesia. Napoli, Francesco da Napoli. Isolalo la corte, ti prego, isolalo. Francesco da Napoli. Posso parlare, Cruciani? Sì, dimmi, Francesco. Dimmi. Allora ti volevo fare prima due cose. Prima volevo partire con una denuncia, ma lasciamo perdere. Ma la denuncia di che cosa, Francesco? La denuncia di che? Però te lo spiego subito, però fammi finire di parlare. No, prima dimmi, di che cosa? Ma prima ti devo fare l'elogio al peto. Non ho capito, scusa. Prima ti devo fare l'elogio al pirito, al peto. L'elogio al peto? No, prima parlami della denuncia. Che denuncia vuoi? No, ce la volevo fare, ma se mi fa lo dico, forse è meglio che opportuno che prima ti faccio l'elogio al peto e dopo ti parlo della denuncia. Dimmi Francesco, dimmi. Allora, l'elogio al peto è così: ubiri perfetuse e puzzolenti, quanto si face legge e non si senti, ma quanto si face tonanti, sa sciala, sia cu face che cu senti. Andiamo alla denuncia. Ma che vuol dire questa cosa del peto? Non ho capito. Tu parli sempre di cacata, di pisciata, invece un pirito no, è brutto e puzzolente quando si fa piano piano e non si sente, ma quando si fa tonante, ride sia chi lo fa che chi lo sente, e si dice si sciala sia chi lo fa che chi lo sente. Vabbè, andiamo avanti, dai. Ecco, andiamo avanti. Allora, ieri hai dato una lezione di etnomusicologia, Sergio Bruni e il Mosin, con l'ironia va bene. Ma quando tu cominci a istigare, Cruciani, tu gli dai la faccia a tutti, sta giandaglia per mo parra, meno male che c'è Parenzo. Cruciani, tu stai istigando, ironia va bene, ma offesa no, Cruciani. Ma di che stai parlando, Francesco? Di che stai parlando? Spiegami. E quando prendo in giro i muslimi, così, ironia, allora? Va bene. E allora? Cruciani, è una situazione delicata. Tu istica da Ma chi istiga? Ma chi sta istigando? Ma di che parli? Come no? Tu crucianiste, perché ma non di che parli? Con ma di cosa tu parli? Quando quel cretino che parla di numero 22 rispondegli 4, 8, 12, se non gli dare detto. Ma che devi essere tu a dirmi come devo rispondere? Non ho capito. No, per sei tu di a Dio. Dirmi. Allora vai a casa, vai. Mario da Frosinone. Vaffanculo, va Cruciani, ti volevo regalare una canna d'erba, non te la regalo più a ma te. C'è un bel clima qui, che però. Mi volevi regalare? Una canna d'erba, io sono il famoso pescivendolo Cruciano, però tu affetti una canna, una canna. E perché mi devi regalare una canna, canna da pesca? Una canna perché da pesca, so che gentile. Tu sei un cultore della marijuana. Ma io no, non sono affatto che tu fumi la marijuana. Come non lo liberi, come no? Ma io non ho mai fumato una canna in vita mia. Posso dire una cosa, signor Parenzo? Sì, di. Sì, eccoci. Signor Parenzo, conoscete voi la legge Gozzini? Sì, certo, la famosa legge Gozzini. Allora perché con Papalia che ho fatto il percorso. Vabbè, non ce ne frega niente, Francesco. Non occupare. Buona mi... serata, ciao. Mario da Frosinone, dai, Mario. Pronto, dimmi, Cruciani. Dimmi. Il Frosinone in serie. Come canta, ciao, canta. Cruciani. Senti, volevo dirti una cosa, io nel 90 ho fatto il servizio militare e a Sant'Elia, in due parole. Questo è interessante. E noi respingevamo i migranti. Già allora. Beh, vabbè, allora? Ecco, noi li prendevamo ogni sera che venivano sulle coste di Pantelleria, perché noi li tracciavamo già con radar, dopodiché li portavamo in caserma, il sabato mattina tutti inquadrati, uno in fila all'altro, sul traghetto, li rispedivamo a Tripoli e a Tunisi. Cioè tu dici che i respingimenti si potevano fare già nel 90? No, io l'ho fatto io con le mie mani, 200 immigrati a settimana alla caserma Garibaldi di Pantelleria. Io li prendevo e oggi invece? E oggi? E oggi li vanno a prendere sopra le coste, li vanno a prendere. Prima noi difendevamo i confini territoriali nostri, delle acque nazionali. Cosa vuol dire difendere i confini? Ma non ci deve un mondo con i confini? Lo Stato-nazione, ma cosa c'è da difendere? Perché i confini non vanno bene? I confini non vanno bene. I confini dell'Europa, ma i confini. Non vanno bene i confini. Ma quanti morti ha fatto lo Stato-nazione? Le guerre tra stati. Ma lascia, ma che sei? Ma che invece, dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo creato l'Europa grazie a un grande sogno, grazie a persone come ancora ma sei ben impazzito. Grazie a un grande sogno come abbiamo riunito la Germania, cioè voglio dire il mondo moderno è quello dai non ci sono dei cercatori di non ci sono confini, non ci sono gli stati, no, tutti possono entrare a fare il cazzo che vogliono, tutto gli stati sono un'entità che nel corso dei secoli ha creato santo morti lo stato nazione, dai, vabbè, ma ciao, la guerra ciao. Tra gli ciao, stati Mario. È stata nella seconda guerra, dopo la seconda guerra mondiale grazie all'Europa sì, abbiamo ridotto storia i conflitti questa qua, ciao cazzo di cazzo, guarda sei un bastardo, guarda che tu finirai male, coglione che sei altro, guarda. La zanzara. Ma mi chiedo, i bambini rom sono vaccinati? Allora ragazzi, prendiamo le un attimo domande. Sì, è importante però, è importante. Prendiamo un po' di petto la questione dei vaccini, perché qualcuno di voi forse lo sa, sono arrivate delle minacce di morte a un signore, un medico importante, un virologo che si chiama Roberto Burioni, certo, dell'Università San Raffaele di Milano, che è quello, diciamo, il più grande sostenitore mediatico, diciamo così, dei vaccini. Certo. Un tizio su Facebook, diciamo, un grande professionista, un grande medico. Sì, certamente, un grande professionista, un medico importante. Non un ciarlatano. No, non è assolutamente un ciarlatano. Uno un che però medico. Sostiene che per esempio i medici che non credono nei vaccini vanno radiati, esatto, eccetera, giustamente, eccetera. Ma io su quello ho dei dubbi. Comunque, sì, ma che ci devono essere delle regole certe. Sì, però amico non mio, è tutto Wikipedia. Adesso, fammi dire non una è cosa. Tutto Google. No, no, puoi dire quello che ti pare, ma voglio dire, non è un tanto al chilo, perché sennò è il caso dell'otite di quel bambino che poi è morto perché i genitori sì, ma qui lo siamo hanno in presenza di un'altra cosa, non devi allargare il discorso. No, non c'è da allargare. Sì, la cosa, la medicina non è Wikipedia. Sì, d'accordo. La medicina non è benissimo. Google. Posso avere dei dubbi sul fatto che vengono radiati dei medici? Posso avere dei dubbi o no? Sul tipo di provvedimento che vengono radiati dei medici? Ma se un medico ti dice di non vaccinarti è un criminale. No, è un criminale. criminale, a meno che non ti abbia fatto uno screening e non ritenga pericoloso per il tuo. A mio parere non va radiato. Ma delle regole, ci vogliono delle regole, no? Non faccia i vaccini, li facesse fare a qualcun altro, ma non va radiato. Posso dire che non va radiato? Crea un problema di sanità pubblica e commette un potenziale omicidio. Potenziale omicidio. Certamente. Allora, comunque, questo Burioni. Il bambino è stato ucciso. Quel bambino. Ma quello non è una roba dell'omeopatia, un'altra cosa. No, ma attento, quel bambino con quell'otite curato con l'omeopatia, tecnicamente è stato ucciso. Sì. Allora, possiamo cominciare a dire le cose con loro? Allora, questo tema non si può scherzare. Questo professore che si chiama Burioni ha ricevuto delle minacce. Grave. Gli hanno scritto un proiettile con il tuo nome. Pazzesco. Pronto in canna. C'è un proiettile con il tuo nome pronto in canna. Colui che gli ha mandato questa cosa, questa frase, che ha scritto questa frase, è un farmacista. Come cazzo si chiama questo farmacista? Pure Marcello Falsari. Marcello Falsari. Falsari si chiama. Falsari. Appunto, l'abbiamo rintracciato. Falsari. Sentite cosa è successo in questa telefonata. Sentite cosa è successo. Sì, pronto, farmacia. Sì, cercavo Marcello Falsari. Chi parla, prego? Mi chiamo Cruciani, buonasera. Cruciani? Sì. Un momento, per cortesia. Pronto? Sì, Marcello Falsari? Sì, chi parla? Salve, buonasera, mi chiamo Cruciani, salve. Buonasera. Lei ha scritto un post su Facebook verso un virologo che si chiama Burioni? No, non ho scritto niente del genere. Non è lei? No. Lei non ha scritto la frase "ho un proiettile con il suo nome pronto in canna"? Allora, quello lì è stato un tentativo di echeraggio nei miei confronti, non l'ho scritto io. No, lei l'ha scritto, no. Perché? No, perché adesso non si assume la sua responsabilità? No, io non ho scritto niente, le dico, sono stato vittima di un caso di echeraggio e devo andare alla polizia postale. Guardi, ci sono anche altre risposte oltre a quella frase là, eh? Cioè, è la stessa persona allora che risponde a nome suo, non ho capito. Probabilmente sì, devo andare alla polizia postale, verificherò. Scusi, lei ha scritto prima, scusatemi tutti, mi fa cagare anche a me il viscido di qui sopra, cioè Burioni. Devo andare alla polizia postale, glielo torno a dire, ok? No, ma scusi un attimo. Alla polizia postale, sono stato vittima di un... Ho un proiettile con il suo nome pronto in canna, l'ha scritto lei o no? Guardi, io non so con chi sto parlando. Io sono un giornalista, mi chiamo Cruciani. Lei è Marcello Falsari, lo stesso che ha scritto quelle cose lì. O comunque, il profilo corrisponde a lei e lei me lo conferma. Lei io però... non glielo confermo, no, perché lei dice... non sono io, perché è facile mettere su una foto e mettere un nome e cognome, ok? È facile. Scusi, lei faceva parte di un'associazione che si chiama ALBA? Ma questo è successo 10 anni fa. Sì, ma lei è sostenitore del metodo AMER? Assolutamente no. Come, scusi? L'associazione ALBA era sostenitrice del metodo AMER? Questo 10 anni fa. Ma lasci perdere 10 anni fa. Questo? No, scusi, ma è per ricostruire. Lei è, dunque, ma non deve ricostruire niente, perché io sono stato vittima di un hackeraggio e si preoccuperà la polizia postale di verificare tutte queste cose. Scusi un attimo. Ma lei ha scritto. Non scusarla, perché non. Cioè, perché questa cosa qui. Lei conosce Burioni? Mai visto, non so assolutamente chi sia. Lei non sa chi è Roberto Burioni? No. Sostenitore dei vaccini, medico virologo dal San Raffaele. Ma dire, io sono stato vittima di un hackeraggio, ok? Lei crede nei vaccini? Guardi, no, le faccio una domanda. Lei crede nei vaccini? Una domanda, è mica un'accusa. Non faccio il poliziotto, è una domanda. Ma io non le dico niente, perché non sono autorizzato a dirle niente. Ma che vuol dire non è autorizzato? Cui, no, lei ha scritto un proiettile con il tuo nome pronto in canna e adesso sta dicendo che è vittima di un hackeraggio, che è la scusa che dicono tutti. Cioè, non regge questa cosa qua, vittima di un hackeraggio. L'ha scritto o non l'ha scritta questa cosa? Di pronto farmacia, chi parla? Cercavo Marcello Falsari. Con chi parlo, prego? Mi chiamo Cruciani, buonasera. Ancora? Beh, certo, ancora, certo. Non io glielo ripasso, ma non credo che voglia parlare. E vabbè, ne prenderò atto. Ecco, allora ne prendo atto, perché io non ho niente da dirle. Io sono stato vittima di un hackeraggio, io so chi è lei. Vittima di un hackeraggio? Perché qualcuno dovrebbe hackerare lei, scusi? Ma non lo so io. Ma perché mica lei è uno scienziato, non è un... è il proprietario di una farmacia, il gestore di una farmacia. Senta, un farmacista. Ascolti. Lei l'ha scritta quella frase o no? Io sono stato vittima di un hackeraggio. L'ha scritta quella frase o no? Di voce, ancora. No, ma è risposta sì o no? L'ha scritta quella frase o no? Non è difficile rispondere, se lei non l'ha scritta, non l'ha scritta. Dunque mi sta confermando che l'ha scritta. Se non mi dice né sì né no, perché se uno non dice no, è evidente che sì. Ma secondo lei, se sono vittima di un hackeraggio, posso averla scritta io? Allora mi dice no, non ho scritto nessuna frase. Non l'ho scritta io quella frase. Benissimo, e chi l'ha scritta allora? Ok. Chi l'ha scritta, scusi? Senta, ma mi sta no, ma chi l'ha scritta? No, è una domanda, chi l'ha scritta? Un hacker al suo ma posto? Ma l'ha scritto neanche X. Cioè hanno rubato il suo... la denuncia contro ignoti. Io mi sono anche scusato con il dottor Borioni, ho dato un'email, ho detto guardi che hanno creato un danno pure a me. Okay? Lei che ne pensa dei vaccini? A lei non risponde nemmeno sui vaccini? Non le rispondo sui vaccini. Non le risponde sui vaccini, cioè a favore o contro i vaccini? Non le rispondo. Non mi risponde. E perché qualcuno dovrebbe entrare dentro il suo profilo e fare un danno a lei e a Burioni insieme? Cioè minacciare no. Burioni? Ah, ma ci sono tanti burloni in giro. Ci sono tanti burloni. Dai, adesso. Ma l'ha scritta lei o non mi dica che l'ha scritta lei? Confessi e basta. Dico, l'ho scritta io, mi è scappata la frizione, punto e basta. Guardi, la storia finisce lì, ho no? Ho poca batteria nel Ma come ha poca batteria? Ma che vuol dire poca sono batteria? Sono con un cordless, ho poca batteria. Ma è in abbia ufficio pazienza. Lei, è in farmacia. Ma lei no. Dice, non sono stato io. Senta, basta. Devo andare a fare altro, ho già risposto. Va bene. Basta. Arrivederci. La saluto. Chiedo scusa, un momento. Chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Guarda Crucian, non mi chiama più e non mi mette più a parlare con sto grandissimo testa di cazzo, capito? Con sta capoccia d'abbacchio, con sto bratipo del cazzo, Sid, perché lo vedi perché mi fa incazzare a me? Perché quando che parla non è che parla io e te, capito? Mette subito a mezzo la moglie, quelli di famiglia. Fatteli cazzi tua, che tu già ti hanno fornificato una volta a Siena, mi sembra che è di Siena, mi hanno detto che è tornata a casa e ha trovato la sorpresa. A me mi hanno detto, ecco perché parla, perché è rimasto scottato, perché parla di quelle cose, dice sempre telefona alla tua cara mogliettina, perché lui già ci è rimasto scottato a sto gran cornuta, capito? L'anima degli mortacci sua. Ecco, non mi devi da chiamare, non mi devi chiamare più, porco Giuda. Non mi devi chiamare più e non mi devi mettere più in contatto con un testa di cazzo come lui. Con sebreo del cazzo. Ciao. La lotta continua. Il confronto continua, caro Parenzo, il confronto continua. Se ad esempio un domani il presidente Macron dovesse tornare in Italia e, come dire, volesse capire un po' del nostro paese e si imbattesse per caso tra le ore 18:30 e le ore 20:50 nella nostra meravigliosa radio trattino trasmissione, secondo me il presidente Macron riprenderebbe il primo aereo per Parigi, direbbe, ma questa veramente è l'Italia? E uno gli direbbe, no caro presidente Macron, non è questa l'Italia, questa è la minoranza rumoriosa. L'Italia è tutt'altro. Perché tu sei riccione, tu sei, guerrerami, merda, guerrerami, tu sei riccione come Macron. Ma perché ce l'ha con Macron? Per i tipi da Zanzara, Luciano, via! Tipi da Zanzara. Luciano da Roma. Apparente grazioso. Sì, ci sei pronto? Dimmi Luciano, i grandi fenomeni, bravi, complimenti. Che vuoi? Che vogliamo fare? Parolacce, vogliamo fare? Ma che vuoi, scusami Luciano? Allora che voglio? Rompi il cazzo dalla mattina alla sera, tu e quell'altro, non ce la faccio più. Allora di che vogliamo parlare? Di come trattate le donne? Vogliamo parlare di, che ne so, di Parenzo che... Aspetta Luciano, però... Le donne dell'Arpi sono tutte zoccole, la sua no, come funziona? Aspetta Luciano, molto calmo. Se chiamo e dico buonasera e mi mani a fanculo. No, devi stare calmo. Non dico niente e mi mani a fanculo. Ma non ho capito nulla io. Mi hai rotto tre quarti, te cazzo. No. Per sottocoppa che c'è vicino. Per sottocoppa che dice la presidentessa scusi, della professore, camera, no? Professore, scusi, però professore. La moglie del camionista professore, che non è d'accordo, scusi, che professore. Non c'è un cazzo, fammi scusi, parlare. Lei lavora per la fondazione Einaudi? Lei lavora per la fondazione Luigi Einaudi? Lei lavora per no, non lavora per mai rotto tre lei quarti ragazzo tre quarti le mogli dell'altri che non conosci non puoi dire che sono tutte zoccole. Ma chi l'ha detto? Dici ma che quando l'ha detto cornuto, tu hai dato della zoccola alla moglie inconsapevole quella parola Lisa. Può darsi pure che è una zoccola, se ma dovessimo andare a vedere anche a casa sua io temo che comunque per carità. Senti, io non so di chi sia la casa mia che me te metto a pecorino. Io non so di chi sia figlio lei, ma lo possiamo vostro... immaginare tutti, guarda. Qual è il problema di Radio 24? Siete quattro polli, so cazzi vostri, io ho perso il lavoro, non mi ha detto niente nessuno. Ma guarda, non rompete i coglioni con Radio 24, perdete il lavoro e vaffanculo. Fino a ieri stavi lì a dire: ah, io prendo tanto, so cazzi tuoi se non lavori, no? Luciani, e poi Lorenzo, ricordati il tuo direttore, dato cazzo vieni. Ma chi? Ricordatelo sempre. Ma quale? Ma quale? Ma di chi parla? Rinneghi il passato, io ma non rinnego il passato. Ma tu lo rinneghi. Stai... Ma va a fare cazzo, di chi parla? Ma cosa fai? Ma di chi stai parlando, di chi Luciano? Parli? Oh, sono anni che vi sento, ma avete proprio tritato le palle, non vi si può più sentire. È meglio Radio Maria che voi. Ma perché no, telefono? Non perché, ma Lucianone, perché telefono? Perché allora, Lucianone mio? Pregna e Parenzo vuole fare filippino in un sassita un attimo. Ma vattene a qualcuno al bagno, no? Una volta che si parla di Pregna, sta in mezzo al cazzo. Dottore, pronto? Dottore, intanto sta in mezzo al cazzo. È pronto il tartufo. Intanto, chiude, da manna a pronto tartufo, dottore. Tartufo vino rosso, pronto? Ce l'hai fatta stasera. C'è solo una cosa, guarda, la dose stasera, la dose l'hai fatta stasera o no? Allora, caro mio, io ho il sangue più pulito del mondo. Ma dove stai? Quale reparto di che? Che sei infermiere? Che sei? Ma che cazzo sono infermiere? Sei te che c'hai il culo bello piazzato su una sedia, non mi rompe i coglioni, lavoro di notte all'aperto. Dove? Dove? E dove? Non te lo dico, attaccate al campo nomadi di via Gandoni a Magliana, mo questo te lo posso pure dire. E stanno amico sempre mio! In festa. Tu farai il nostro inviato al campo nomadi. Ma tu devi andare a fanculo, lo faccio per te, non farò mai niente perché ho perso tutta la stima. Le posso dire questo, caro? Quelli che frequenta lei sono un po' diversi da quelli che frequento io. La mia moglie, la mia signora, no, tanto no, chi paga gli alimenti mi sa che sei te. Signora, questa è bella. La sua che... non è proprio una signora. Comunque non importa. Ah, la mia non dire... è una signora. No, non tu, la sua in quanto signora. Paghi gli alimenti, le volevo dire questo, allora, le volevo dire questo. Le persone... A chi? Anani. È simpatico. Lei è veramente simpatico come un gatto nelle mutande, sa? Rincoglioniti, voi state dentro la macchina mia dentro e mica potete fare come cazzo. No, ma poi cambiare ma lo diciamo noi quello che fare, che lo decidi te, imbecille. No, a me ce la decidi te, la coglione. Ah, fenomeno. Arrivate, ma che bella conversazione. Il grande giornalista d'assalto. Ma che decidi te che decidi te quello che chi, ma quanto va a morire a fanculo, l'ho visto quando bello, c'è bel linguaggio, giornalista bel linguaggio. Tipi da Zanzara. Bene ragazzi, Ruben da Roma, vai, vai con Ruben da Roma, questo è un fenomeno assoluto, questo Luciano è un fenomeno assoluto. Ma questo è come la conversazione, la cosa interessante di questo programma, poi mi zitto, è come improvvisamente la conversazione degenera, ma degenera in modo irreversibile, assolutamente, no? Cioè, può partire anche con piccole scaramucce, sì, no? Sì, ma lei sì, come sì. si permette, ma la sì. prego, eccetera. Basta, proprio come dire, n'anticchia e si degenera improvvisamente tutto, ma degenera in modo irreversibile. La conversazione Ruben, vai Ruben, vai. Sentiamo. Avanti, comunque, avanti. Con questo tipo da zanzara sì. pronto, dopo tutto quello che ha detto, è una cosa incredibile risentirlo. Vai Ruben, dimmi, sì. dimmi. Allora, come Macron è diventato ormai quasi un modo di dire. Tutti che dicono come Macron, come Macron. Cioè, avete fatto diventare una cosa nazionale. Vabbè, come dai, Macron. Allora niente, io l'intervento era perché anni sì. fa questa ecco, è una cosa vera finalmente anni fa avevamo un una piccola casetta a Montesilvano lì vicino a Pescara, sono di Roma e facevamo il bagnetto lì. Sì, il primo sì. anno tutto a posto, il secondo anno tutto a posto, Cruciani, il terzo anno si è riempito di zoccole. Beh sì, Montesilvano, Montesilvano nel sì. senso di topi. Ma una vergogna, non potevi invitare un'amica a cena, non potevi portare. Ma topi, lei parla degli animali. No, puttane, puttane sotto ah, casa. No, prostitute. No, no, no, Parenzo, una cosa schifosa. Ma perché è schifosa? È una cosa anche allegra. È una beh, cosa allegra, sì. ma è una cosa allegra. Avere le puttane, io non riesco a capire quelli che però, si oppongono aspetta, con aspetta, le multe, eccetera. Degli anni 90. Avere le puttane sotto casa no, è una cosa gioiosa. Ma dispiace anche per allegra, loro. Allegra, no? bella. Ma che allegra. Io vorrei avere. Casa mia ma con sono le mignotte tristi sotto casa. Ste ragazze, ma, so, ma cosa dici? Ma, ma... sì, sì, allora, sì, sì. Non ma vuoi allora, avere un notaio che sta sotto casa? Notaio, un architetto? Ma che notaio? No, ma io un architetto, ma magari un imprenditore. Ci voglio... Lui, tu sei l'unica persona al mondo che voglio avere le prostitute sotto casa. Ma uno normale no, direi, ma voglio io avere voglio un architetto, dire un'altra cosa. Voglio avere dire... un commercialista, invece voglio avere un... uno scrittore. Io voglio avere Dacia Maraini sotto casa invece. Ma vedi la differenza? Meglio una prostituta. Io voglio avere Dacia Maraini sotto casa. Tu invece Angelo Panebianco. E che voglio avere? Angelo Panebianco. Ma io non parlo degli inquilini, io sto parlando di un'altra cosa. Sto parlando che invece, per esempio, di avere un bar chiassoso, di avere dei rompicoglioni sotto casa, meglio, come succede ogni tanto qui a Via Monterosa, 2, 3, 4 prostitute. Sì, va bene, ci sono le marche che si, le macchine però, che si fermano, ma chi se ne ferma? Non lo so, se sono sfruttato non è un problema mio, ci pensi la polizia. Cioè, sono è una cosa colorita, simpatica, anche divertente, colorita, la vita, la gente si ferma, si appartano, consumano, sì, buttano qualche preservativo per terra, va bene, poi passa. Ad avere questa idea dell'amore come merce, Luciano, proprio. Ascolta, come si lì hanno venduto Ruben. Tutti, hanno venduto tutti. Va bene, d'accordo, hanno venduto tutti, perché hanno venduto? Perché hanno venduto? Hanno venduto perché, Cruciani, il Mandic ne stavano una ventina, una trentina, tu io penso che fra un po' ti chiamerà tutta a pescare in terra, che ti dirà che lì era diventato un quartiere. E va bene, d'accordo, e allora poi, ma quello è successo 20 anni fa, però noi che ci frega adesso? No, niente, però chiaramente quel ragazzo, giustamente, lo capisco, da una parte io sto a Roma. Cioè hai dovuto vendere pure tu casa? Ma vende, l'ho venduta come se vendevo un motorino, perché non la comprava nessuno. Montesilvano proprio così. Vabbè, amico mio, ma che ti devo dire? Vabbè. E che devo fare? E che devo io fare? Sto dalla parte di questo ascoltatore che pone giustamente un problema sociale riguardo lo sfruttamento sociale, di queste non povere non ragazze. Non gliene frega nulla delle prostitute. E dall'altro un problema legato al valore della sua ex casa. E vabbè, pazienza, no, ragazzi. No, Cruciani, attenzione, attenzione, non è vero che non mi interessa, perché se tu vai su Google e scrivi bordello austriaco lì, se tu vedi come si è organizzato lì super, lo sapete. A me lo dici. A me lo dici. E allora fammi capire, Tom, mi fa capire una cosa. In Italia, con tutti questi bordelli, comunque a prescindere, soffre, chiamiamole così eufemisticamente, ma perché non si sistemano questa cazzo di legge? Vabbè, Ruba, è un vecchio discorso, dai. Ragione. Sfondi l'ultima la porta aperta, bordelli l'ultima anche cosa. In Italia. Domenico dalla Provincia. No, basta. Domenico. Domenico Reggio Calabria, basta. Domenico Reggio Calabria. Fenomeno, ci sei riuscito, adesso ti daranno la scorta. Aspetta, fermo, non sento. Parla meglio, Domenico, parla meglio. Fenomeno, dico, ci sei riuscita, adesso ti daranno la scorta. Ma non danno la scorta a nessuno, sì, non dire cazzate. Ci sono due gruppi di animalisti che hanno le buste piene di merda, che quando vedono te le vogliono dare addosso. Una a Milano e una a Roma, e si stanno organizzando in Umbria. Sì, vabbè, Domenico, dai, forza. Vaffanculo, no, devi stare. Sei stare tranquillo. Ma perché fai così? Perché così ti daranno la scorta. Tu questo volevi, invece di dartela per gli islamisti, te la ma da dove stai chiamando? Che non si sente? Da dove stai chiamando? La merda dal balcone di casa mia. E mai rientra in casa. Ma sono benissimo. Allora, mo ti spiego. No. Alla violenza verbale. Ma tu non sei Macron. Non sei quello di Macron, tu. Ma quale Macron? Alla violenza verbale bisogna rispondere con la merda. Vabbè, sì, ma rientra dentro casa. Domenico, rientra dentro casa. Bello dentro casa. Non si sente. Vai a fare in culo. Corra. Adesso sì, si sente. Rientra in ospedale. Ecco, rientra questa. Ecco. Allora, alla violenza non bisogna. Alla violenza verbale non bisogna avere come tu sei la gentaglia. Ma perché c'hai la radio alta? Abbassa la radio. Ecco, abbastanza. Mamma mia, sei proprio ignorante. È l'ABC, sei. Però, è l'ABC. Certo, naturalmente, mica posso avere le scuole tue. Comunque sei ignorante come una capra, una bestia, non sai nemmeno l'essenziale. Cioè, abbassare la radio, parlare bene col telefono, così ti si sente bene. Le tue cazzate devono essere sentite bene. Allora, le mie cazzate, ci sono due gruppi animalisti, una a Milano e una a Roma. Ma che ne sai tu, che sei, della polizia, della Digos? Che ne sai? No, vuol dire che lo so, ti daranno la scorta perché stanno pronti, una merda. Ti ricordi quando gliel'hanno buttato sotto? Sotto casa Berlusconi, a te ti aspetteranno nei ristoranti e tu allora finalmente avrai la scorta, egregio Cruciani. Ma io non voglio avere nessuna scorta, sì, amico mio. Come no, la desideri, come no, Cruciani, ti deve dare un tono. Tu prima hai detto che sei un giornalista, tu sei un trattenitore, Cruciani, ti prenderanno a merda, vaffanculo, Crucianino. Ma questo ha bisogno veramente del medico, no, questo ha bisogno, questo è veramente grave. Si vede che non è passato stasera. Ma questo qua, quanti anni ha? Cioè, questo qua è un signore che non ha nulla da fare, sente la zanzara ogni sera. Questo mi danneggia, però. Esatto. Questo mi danneggia un po'. Datti una risposta, amico mio, datti una risposta. Dandele sta gentaglia a cagare. Bene, grazie, basta così però. Ma grazie. Questo qua è la maggioranza silenziosa. Basta così. Dico, no, mio, come è un infiltrato. Questo è della maggioranza silenziosa. È un infiltrato. È vero che sei della maggioranza. No. Domenico, è vero che sei. Aspetta, provocatore, è vero che sei della maggioranza silenziosa? Cruciani, sono il pescivendolo che ho preso in culo con un altro numero. Ciao, Cruciani. Ma lo sapevo io. Ma ti ho riconosciuto, cretino. Ti ho riconosciuto. Ti ho già riconosciuto, imbecille. L'avevo riconosciuto da 3 ore. Corrado, dai. Allora, il vostro programma, tra parolacce, cazzo, vaffanculo, innanzitutto è di basso livello. La radio la fai tu, sei tu il fenomeno. Fenomeno. Ti voglio un fenomeno. Fenomeno, io non ho capito una cosa, ma che c'entra? Fenomeno sarai tu che guadagnerai 3-4 mila euro al mese, non io. Siete dei volgari e ignoranti. Questo è arrivato non... lui, Ivan. Non è sbagliato. È arrivato il censore Ivan. Frate, fammi fare il fenomeno. Fenomeno. Vergognatevi. La zanzara. Mi sono appena sparato 2 o 3 filmini di Mia Khalifa. Alla facciazza del califfo. Hai capito, caro Cruciani? Che paese di Badoglio e Cadorna che siamo ancora, tutti infamoni, lecca culo degli islamici. Caga sotto, grande Cruciani. Parenzo, quando vuoi. La zanzara. Voglio che Parenzo venga a cagare a casa. No, io voglio una Ike. Una Ike, voglio una Ike! Allora ragazzi, vi dobbiamo rendere i dotti, come si dice, di una denuncia, di una denuncia. Scusi un secondo, ma non c'è più quella bellissima musichetta che cantava la signora Rivelli, che faceva la la la la la la. No, non c'è più, è scomparsa. No, no, è di un altro. Ma tu da quant'è che non scopi? Ma ecco, non questo, non intendevo questo, questo è importante, no? Saperlo. E tu non chiarisci mai questa cosa fino in fondo. Dottore, arrivato professor Settis a casa. Ma che c'è sempre Settis a casa, che due coglioni, ma non c'è mai una porno star, ragazzo. L'altra volta c'era professor Zagle... Dottore, non ospita Polchelli lì nel proprio salotto politico. Allora, vi dobbiamo rendere dotti di una denuncia, sì, di una denunzia fatta, bravo, sì, bravo, fatta dal signor Rosario Marciano. Beh, ecco. Detto anche, lo ribadisco, detto da, sì, noi soprannominato Merdanò. Ma Merdanò, sì, non perché lui sia affetto merda, sì, no, propalatore di merda, propalatore, sì, di merda, bravo, propalatore, diffusore di merda. No, propalatore di merda. Spieghiamolo per questi somari, no, che la telefonano. Gente lo sa, la gente lo per sa. I somari che telefonano. Allora, propalatore, senti, lo trovate anche su Google se non lo sapete. Senti che cosa ha scritto questo signore. Rosario Marciano, di professione non si capisce cosa, no? Residente a Sanremo, ma nativo di Saviano, provincia di Napoli. E non dico niente su questo. No, vabbè, questo non vuol dire niente. Denuncia querela nei confronti dei giornalisti, nonché conduttori di Radio 24, Giuseppe Cruciani, David Parenzo, sì, anche del signor Riccardo Poli, redattore della trasmissione Zanzara, e Guido Gentili, direttore di Radio 24. No, anche lui querelato e denunziato. No, lui l'ha detto, direttore, lui l'ha scritto. Senti, non si tira in ballo. Puntata del 30 maggio 2017, minuto, sì, 14.08, e allega, sì, nella denunzia. Sembra capanna. Minuto 14.08 si è verificato questo gravissimo fatto. Leggo. Per il reato di diffamazione, articolo, esatto, 595, sì, codice penale, avendo proferito nella diretta radio ascoltata, sì, da milioni di persone le seguenti frasi: Giuseppe Cruciani, sì, ma tu lo sai che un altro malato che si chiama Marciano, che io ho soprannominato Merdanò, sì, Merdanò, lo ribadisco, sì, ti ho soprannominato Merdanò, sì, quindi esattamente, si ricommette il reato. Oh, Parenzo, Marciano ha il cervello marcio, si, sì, chiama Marciano perché, sì, praticamente ha il cervello completamente marcio, confermo, credo. Quindi marcia no, capito? Sì, quindi marcia no, non è allegato audio, allegato audio ammesso. È il contrario di Macron, non è on marche, è marcia no, no marcia. Si conferma la volontà di perseguire penalmente l'autore o gli autori dei fatti in cui esposti per i reati di qui sopra, o per altri che si dovessero ravvisare nella condotta sopra. Anche altri reati, si può. Si domanda di essere informati circa un'eventuale richiesta di archiviazione, cioè questo signore, no, sapendo che la sua richiesta, provenendo da uno che ha il cervello marcio e che è merda no, sarà archiviata. Sarà totalmente archiviato. Speriamo, eppure, sì, eppure, no, ma si, sì, puoi stare certo. Sai, ma magari, sì, se arrivasse il processo con Marciano, ma tipo, guarda, prego, prego, caro giudice che sarà incaricato, mi fai andare a processo con Marciano? Sì, ti prego, sì, ti, sì, prego, faccio andare a processo con Marciano. Si porgono gli ossequi, Sanremo 31 maggio 2017. A Marciano, dai, su, dai. Questo Marciano dice che la storia del bambino morto a causa forse dell'omeopatia, l'otite, eccetera, è falsa. Crede alle scie chimiche, tutti. Cos'è gli attentati. Falsa, scusa. È falsa, la storia non esiste. Cioè, è inventata. Non è morto il bambino. No, è inventato. È tutto inventato. Marciano, sempre lo stesso Merdanò. Dice anche che tutti gli attentati che si svolgono, sì, che ci sono in Europa, sono tutti con dei fatti dagli attori. Ci sono degli attori, sono tutti attori, falsi. Sì, certo. Pure i processi sono falsi, allora. Pure, sì, pure le querele sono falsi. Sì, beh, certo, sicuro. Ragazzi, io chiamerei, però, siamo in pieno Ramadan, chiamerei Siddiq Nur Allah. Perché bisogna disturbarlo? Siddiq Nur Allah, durante il Ramadan. Voglio rompere i coglioni a Siddiq. Ho alcune domande da fargli sul sesso durante il Ramadan. Ma perché? Sì. È fissato. Pronto? Si dica. Come stai? Come stai? Sono Cruciani. E Parenzo. Ah, sto bene. Voi dove sta? Amico Siddiq, come va? Come caro, va? Caro. Bene, bene, siamo in Ramadan. Ecco, come va il tuo Ramadan, Siddiq? Bene, andrà. Ramadan sta bene, tranne diciamo un po' di problema, perché il costo troppo della, come si chiama? Di che? I cibi. I? Resta tutto bene. I cibi. Come i cibi? Che ma c'entra anche i cibi? Al cibo, non mangiano, no? Mangiano la notte. Ah, perché non mangi? La mattina presto si mangia. Sì, ma... Certo che mattina presto alle 3 di mattina e poi tramonto. Ah, al tramonto, cioè, e durante tutto il giorno non si mangia. Signor Cruciani, posso salutare mio un amico commercialista, come si chiama, Massimo? Ma che cazzo ci frega, scusa, del commercialista? Vabbè, lo saluto, no? Che lui no, ma fratello Muslim, mi sembri molto integrato, infatti, perché fai pure le marchette al commercialista, è una cosa straordinaria, fratello Muslim. Certo. Scusami, ma com'è? Ottimo, vedi quanto è integrato, però, ma scusami. Quelli, alla fine. Si può fare sesso durante Ramadan? No. No, vietato. Un mese senza fare sesso? Sì. Certo, però attenzione, c'è una interruttura quando c'è, diciamo, dopo tramonto, prima del, come si chiama, mattina 3, questo dell'alba. Tempo se marito e moglie, sì, certo. Ah, va bene, allora si può fare ogni giorno, volendo. Se marito e moglie vuole, certo. E se uno non rispetta questa cosa e fa sesso durante il giorno? No, non può essere, perché Ramadan non significa soltanto digiuno del panza. Ramadan significa, deve essere come sacrificio per tutto, certo, punto di vista. Ah, sacrificio pure di bisello, diciamo. Sacrificio, no, ma perché pure... devi dire così? Certo. Si digiula anche dalla vostra parte, dalla quinta colonna, o lì si può andare a battagliare? In televisione, tipo informazione, possono vedere tutto, tranne giustamente porno, film porno non consentito. Ma perché quindi dalla vostra parte non si può vedere? No, perché c'è dalla vostra parte fanno, come si chiama? È porno dalla vostra parte? No. Se fanno porno, noi non diciamo vostra parte, noi diciamo siete alla loro parte. Dalla loro parte, certo, bravo, sì, giusto, bravissimo questo, bravissimo. Della loro parte. Scusami, no? Come si dice Bel Pietro in arabo? Bel Pietro. Io posso dire in bengalese, dai. Allora, Bel Pietro in bengalese deve essere Sundar Pietro. Bellissimo. Ripetilo un attimo, per cortesia. Sundar Pietro. Stupendo. Sundar Pietro. Però io dico una cosa, no? Allora, siamo arrivati a un punto. Durante il Ramadan si può fare sesso solamente prima delle 3 e dopo il tramonto, vabbè, giusto? Sì, sono consentiti il bacio. E la sega, se uno si vuole masturbare? Ma cosa dici? Non si può. No, solo bacio. Masturbazione non si può fare. Non si può fare. No, anche masturbazione no. Ma... Allora fuori regola. Ma quello nemmeno in altre situazioni, quando non c'è il Ramadan pure non si può fare masturbazione, o no? No, non può fare, cioè, giustamente non può fare mai, però in Ramadan anche, diciamo, peggio ancora. Uno... Non ti sei mai masturbato in vita tua? Ma che te ne frega te di quello che fa? No, perché mi domandi questo? Perché sei musulmano. Allora, puoi sentire una barzelletta? Dimmi. Un ragazzo è andato per, come si chiama, leggere sue mani ai astrologisti, come si dice, che leggono mani, come si dice? Sì. Vabbè, cartomanti, gli astroi maghi. Maghi, no? Sì. È andato per dire, per favore, leggi mia mano. Il mago dice, no, io devo vedere tuo pisello. Dice, ma perché? Dice, no, tu hai fatto troppo mastrazione che adesso non c'è nessuno riga in mano, tutto è entrato lì. Che fatti? Hai capito? Siddiq Nur Allah. Scusami, Siddiq, ma tu non ti sei masturbato in vita tua da musulmano, ma che te o no? Ne frega? Hai sgarrato o no? Ma che ti frega? Assolutamente no. Per te è giusta la poligamia? Se causa, come posso dire, per caso, può, sì, accettabile. È accettabile la poligamia. Non può generalizzare. Torniamo al Ramadan. Cos'è che non si può fare? L'alcol? Allora, il Ramadan non può mangiare, non può fare sesso. L'alcol? Mai. No, l'alcol. Né alcol, né può bere, dai, né con acqua. Niente. Né sigarette né nulla. Tu sei mandato con le prostitute, tu, Siddiq? Io? Sì. No. Certo. Un musulmano può andare con prostitute? Assolutamente no, neanche che cattolico. Se vanno, non è che va in qualità di cattolico, va in qualità di maschi, capito? Per sfruttare un corpo della donna non può. Ah, per cui no? Per te la prostituzione significa sfruttare il corpo della donna? Certo. E le donne in giro, secondo te, devono andare vestite? È meglio che si vestano di più, o no? Di più. Secondo me, certo che... La donna col velo... Certo, diciamo, possono dire, anche possono dire con una banana, se apri troppo nessuno vuole mangiare. No, ma aspetta, questa è la banana, una banana? Scusa. Sì. E coperto? No, se non è sbucciato tu prendi e mangi, no? Se troppo, come si chiama, aperto al banana, nessuno vuole mangiare. Per questo senso, come ha detto il corpo, più bello, certo. Se è coperto, se è coperto è più. Ma mi pare bella anche come cosa, che sei tu l'uomo e devi l'uomo sbucciare. Che la sbuccia. È meraviglioso. Anche quando la donna è molto vestita, è più bello, no? Dai, è più intimo. È più... Anche maschi, quando c'è, come si chiama, caravatta, tutto questo è più bello, no? Una comunque, cosa alla fine, io voglio capire, l'Islam è una religione di Bashe, per esempio, o no? Per me non è una religione di Bashe, una religione di Bashe. Bage. Per pace dici? Sì, è una religione di pace l'Islam o no? È certo che è una religione della pace. Ma a me non mi pare, amico mio, hai visto un sacco di attentati. Ma che ti ha fatto Sadiq Nurallah? No, attentati non fanno islamici, dai. E chi li fanno, scusa? E gli occidentali dicono di farlo e fanno come giocattoli. Cioè tu dici che sono i servizi segreti occidentali, dici? E certo. No, i servizi segreti occidentali. Allora, mi devi spiegare. Circa un mese fa. Ma l'hanno rivendicato quelli dell'ISIS, Sadiq Nur. No, ma no, che dici? ISIS non esiste. Ma come non esiste? L'ISIS è una creazione. Allora io dico perché non devi dire rispondere, perché non esiste, senti. E dunque, secondo te chi sono i servizi segreti occidentali dietro? E certo. Dunque, tutta colpa di Stati Uniti, Israele, è tutta colpa loro? E certo. E certo. Perché ma Maometto, così, per esempio, Maometto. Andava con donne molto giovani, signor Maometto. Ancora con questa storia. Sì, però è sposata. Ho capito, ma amico mio, qualcuno dice te ne frega? Che era un pedofilo, ma signor Maometto. Questo, quando parlano queste cose di pedofilia della Mohammed, lo so che Santachè una volta che ha parlato, però attenzione, Mohammed è sposato, cioè questa signora si chiama donne. Aisha, non è però, bello. Attenzione, è sposato, ma attenzione, è sposato formalmente e la carta, ma non ha portato mai a casa, non erano consumato matrimonio. E che ne sai? Hai tu? Capito? Che ne no, sai? È scritto. Storia, dai, è la storia del momento. Sì, ma ho capito, amico mio, ma nei paesi islamici esiste ancora le spose bambine? Esiste. Le spose bambine esistono nei paesi islamici? In alcuni paesi. Allora, paese islamica. Oggi parliamo della profeta Muhammad. Attenzione. Nei paesi islamici matrimonio erano formale matrimonio, non erano consumato. Uguale, amico mio. Non è uguale, assolutamente non è uguale. Vabbè, un'altra cosa, scusa, ma perché le donne con le mestruazioni non possono entrare dentro le moschee? Sono non possono entrare, questo è un regolamento, penso per purezza anche, dicono per chiesa che quando c'è preghiera, attenzione, se ma come fai a controllare? Come fai a controllare? È questo, ognuno ci sente una morale. Le sorelle non entrano, sore non entrano alla preghiera quando c'è mestruazione. No, un brutto, un maschio va per dire una signora c'è mestruazione, tu non puoi entrare, dai, un brutto, no. È brutto, te lo spiega anche lui che è brutto, te l'ha detto. Però c'è dica, un po' il buon senso. Scusami, si dica, ma a te, ma te per esempio, si può fare, secondo l'Islam, si può fare il sesso con le mestruazioni? No, nessuno, neanche, come si chiama, ma questo biologia senza accetta questo. No, non è solo religione. Ma questo guarda che anche molti non islamici. Ma è pieno di gente che fa sesso col mestruo, scusami. Ma ho capito, e altre donne ritengono di non doverlo fare perché detto? Non le piace a loro. Ma chi dai, ha detto nessuno? Ma che fai? No, nessuna religione consente neanche come se sì, ma tu lo consente. Fai lo stesso o no? Ma anche alle donne non piace alle volte, senza essere musulmane o cattoliche, su. Vabbè, si dica. Mi raccomando, com'è la tua preghiera del coso? Come fa la tua? Allahu Akbar, Allahu Akbar. No, di nuovo, come inizi stasera il Ramadan? La preghiera di stasera, com'è? Allora, stasera della preghiera sempre come si chiama del dopo tramonto. Com'è? Noi facciamo preghiera, Allahu Akbar, Allahu Akbar, poi c'è una recita del Corano, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ecco, Ar-Rahmanu Rahim, Malik Yawmiddin, sì. È complicato. Facciamo insieme. Ne faccia una per Belpietro anche. No, facciamone una insieme. Allahu Akbar. Ma solo Allahu quello sai tu. Allahu Akbar. Dio benedica Belpietro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dio benedica vostra trasmissione Zanzara. Ciao. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara. Volevo salutare Parenzio. Sì, Parenzio, come cazzo si chiama? Tu sei partito per grande stipendio a condurre trasmissione con Cruciani. Io son rimasto a pulire e lustrare molteplici bottiglie di champagne. Mi hai detto tra 5 minuti chiudiamo, ma i miserabili ti tengono ancora là. Qui tutto pulito dal vino al salmone, all'osti e caviali a volontà. Torna a Padova, dottore aperitivo più non fa. Torna a Padova, a Roma c'è lì caldo e casa pound. Torna a Padova, senza te Bitonci trionferà. Torna a Padova, la maggioranza silenziosa aspetta te. Get your kicks, get your kicks, you gotta run, run fast from the gloomy grips, you keep the bad thoughts out. Avete rotto le palle, chiaro? Io la lasciamo anche andare dove volevo. Avete rotto i coglioni. Questa è il padre di Renzi, eh? Babbo Tiziano. Leggo su un giornale nazionale. Oh, finalmente. Pughi cerca marito. Michela Biancofiore, deputata. Ormai il mondo è finito. Michela Biancofiore, deputata azzurra Alto Atesina, ha preso la sofferta decisione. Ti giuro, su un quotidiano nazionale. Qual è la sofferta decisione? Per la sua Carlina, che è trattata come una bambina, dorme nel letto con lei, le viene fatta una torta di compleanno e il bidet tutte le sere. Il bidet al cane. Il bidet tutte le sere. Amico mio, come il bidet al cane. È arrivato il momento dell'accoppiamento. Inutile a dirsi che per importante. Michela la ricerca e la selezione del marito sarà lunga e delicata. Ma non doveva fare accoppiare, ragazzi, il suo Carlino con Dudù? Ragazzi miei, io voglio dire una cosa però, ragazzi, ripeto, per la questione di Berlusconi oggi si è scoperto, grazie a un articolo sul giornale Tismo, che Berlusconi, la Fininvest, è azionista di una società che fa la sperimentazione animale. Fa la, no, per me no, però poi non puoi essere animalista. La stessa Biancofiore, la Brambilla era azionista di un'azienda per il congelamento di pesce. Dico congelamento di pesce morto, ammazzato, dunque pesce, come no, era sicuramente fino al 2012 sicuro, dopo forse vabbè, quello uno può cambiare, no, ma che può cambiare cosa, non c'è niente da prima. Beh, siamo uno, prima congelava gli animali e poi adesso fa l'animalista, dai. Beh, su gli animali, congelava il pesce, adesso non lo so io, ma non me ne frega niente a me, ma che cosa mi invitate, però, a parlare? Io ripeto, sono le 8:40, ho chiuso il giornale Libero, ho scritto che gli immigrati devono andare a casa e adesso vado a mangiare a Baglioni, ma non me ne frega niente delle vostre discussioni. Sì, però lei, Feltri, concorderà sul fatto che era meglio Berlusconi quando faceva arrivare a casa sua certe signorine piuttosto che Arcore piena di cervi, certo, piena di cani, cosa normale, stai piena dicendo. Piena di cani paffuti, piena di vari personaggi, pecore, eccetera. Anche visto, noi, no, sì, pecore, agnellini. Noi ricordiamo quelle conversazioni meravigliose che Berlusconi intratteneva con le cosiddette olgettine. Più olgettini ad Arcore e meno animali. L'ho detto già ieri. Più zoccole. Beh, l'ha detto, guarda, meno. No, ma più zoccole in senso buono, io lo dico, non in senso negativo. In più senso zoccole. Più zoccole, meno agnellini. Ma zoccole in senso positivo. Abbiamo capito. Perché qualcuno si è incazzato, dici? No. Amo, ciao. Ciao, tesoro. Ciao, cucciolo. Scusa, ti ho disturbato. No, ero. Però avevo in corso degli appuntamenti importanti, adesso li ho finiti. Li ho finiti, sono a posto. Ah, ok. Dimmi. E niente, perché io ero qua con la Diana, Maristel e Aida. E ti volevamo dire se anche loro possono venire a trovarti oggi. Stasera cena? Sì, stasera. Alle 9:30? Alle 9:30, sì. Aspetta proprio un secondo che ti vuole parlare la Mari, che è qua, aspetta. Ehi, ciao tesoro. Ti hanno lasciato il messaggio di ieri che non sono potuta venire? Sì, infatti. Anche oggi? Sì, mi hanno detto. Ok. Mi hanno detto che ti importava nulla di me, che preferivi tutti gli altri. Non è vero, no, sì. Poi ti spiego cosa che. No, me l'hanno detto. Dice, guarda, ha detto la signorina mia, Maris, dice che non gliene frega un cazzo di lei. Dai, e che lei ha fatti, appuntamenti molto più importanti, interessanti e sessualmente molto più eccitanti. Amo. Ascoltami, che quindi c'è anche la Ida. Benissimo, sì. Non abbiamo niente. Sì, l'unica cosa che c'è da dire alla Ida è che non abbiamo niente di speciale stasera. Perché siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie. Dai. Sì. E io sono stremato, capito? Ma come dici, sei tu, no? Sì. Io sì ci sono. Ah già, va bene. Allora, allora metto altri 4 posti a tavola, va bene? Sì, amore, va bene. Ciao tesoro. 9:30, 10, eh? Ok, perfetto. Ciao mangio. Tesoro, ciao. Senti. Dimmi. Senti. No, no, aspetta un attimo. C'è anche Elena che ha telefonato. Sì, ma non lo so dove è lei. Cosa ti ha detto? No, che voleva venire. Allora dille di sì, chiamala. Chiamo io, ciao. Va bene. Ciao, un bacio. Ciao, ciao. Va bene. Ma com'era sul pezzo, amico mio? Com'era sul pezzo? Io devo chiedere pubblicamente scusa a Berlusconi. Perché, guarda, perché in quegli anni lì ho sbagliato. Ma era bellissimo, ecco, era stupendo. Dire, no, io ho sbagliato. Abbiamo guardato troppo per il buco della serratura. Delle... Ha ragione Sgarbi. Io devo fare. Sai, no, ma era uno... meraviglioso però tutto questo. Sì, sì, ma era abbiamo sbagliato. Meraviglioso. Abbiamo sbagliato perché un capo di Stato non lo si giudica da queste cose. Sì, e io d'accordo, stesso però ti dico... sbagliai. Però... Sbagliai a giudicarlo in modo molto sì, duro. Però ti dico una mi cosa. Fa anche un dolore che tu mi mandi questa cosa. Ma io lo faccio uomo, in senso, ma in senso positivo. Poi un uomo io che organizza è un grande organizzatore di cinema. Qual è il problema? No, ma qual è il problema? Ma a me uno lo non dici, può cenare a me casa lo propria. Dici, a me lo dici. Uno non può, uno ha il diritto di cenare con chi gli pare. Beh, a casa insomma, propria. Dipende poi quello che succede. Comunque, no, no, vabbè, ecco, è arrivato che uso se ne fa. No, che ma che uso si fa uso. Poi di quelle cose. Comunque devo pubblicamente chiedere scusa. Sì, però perché ti dico una cosa. Ho sbagliato anch'io. Ti dico una cosa. Non era meglio così piuttosto che gli animali a casa? Dimmi la verità, anche tu. Non è meglio le oggettine, la Maristel Polanco, tutte queste meravigliose signorine, queste cene meglio che quelle della Brambilla, rispetto, gli agnelli, ma non è per gli agnelli, gli animali, gli agnelli, parliamo di animali, non della famiglia, dai, agnelli su, no, ma voglio dire, ma voglio dire il dai, più zoccole, meno agnelli. Vabbè, dai su questo, ma dai, oh, ha chiamato Mauro, ha chiamato il signor Mauro, Mauro, ma veramente l'ho detto, non lo dico in senso oggi positivo. No, qualcuno... oggi ti assicuro non posso farcela, guarda, se ti chiedo scusa perché io non so cosa vuole Mauro, non posso farcela. Che cos'hai, mal di cuore? Hai mal di cuore? Che cos'hai? Io non so di cosa voglia parlare Mauro. Mauro, mi raccomando, non attaccare di nuovo gli ebrei. No, le cose non ce la faccio, coglioni, non ce la faccio. Ce Mauro, la faccio. Vai, dimmi. Ce la faccio. Ma come mai? Ma come mai? Non sei venuto a Verona? Ma vabbè, col vabbè, Mauro, dai, su, ma di nuovo. Dai. E che te la facevi sotto, coglioncello? Formicattolo, coglietto. Vabbè, dai, coglietto, su, Mauro, forza, dai. Di che vuoi parlare? Ma tanto, hanno pubblicato una foto di questo qua. Hanno pubblicato una foto di questo. Ti vengo una foto di sto Mauro, aspetta, da Manto, aspetta, va, che io non avevo mai lì. Aspetta, allora. E quelli che fanno il Facebook farlocco con il mio, con la mia foto. Vabbè, non ci interessa. Che hai detto, Parenzo? Scusa, no, che dicevi? Hanno pubblicato una foto di questo qua. Che è un cesso a pedali, proprio sto uomo. Cioè, poveretto. È ma tutto ti sei visto tu? Che c'è una roba. È una roba incredibile. Capelli biondo platino tipo David Bowie degli anni Ottanta. Grasso all'infinito, poverino, non è quella colpa sua. Con degli occhialoni tipo ragionier Fellini. È una roba. Che ti faccio vedere? Calma, calma. Calma, calma. È un mostro di Loch Ness ambulante. C'è una roba. Ma dovrebbero dargli una patente. Ma di che cosa vuoi parlare, Mauro? Perché hai chiamato? Ma come cazzo parli? Ma riesci ad andare in giro con quella faccia così? Che è brutto come un cesso. Ma riesci tu perché gli hai detto che è un cesso? Perché gli hai dovuto dire io? Ma che l'occhiaio che no, ma io ho detto, hanno pubblicato su Facebook queste foto di questo signore. Vabbè, adesso ma lasciamo perdere. Lasciamo perdere le caratteristiche fisiche, Mauro. Dimmi. No, ma infatti è orrendo. Vabbè, ma lascia perdere. Vabbè, poi no, giustamente la mia Filippina, la mia Filippina, giustamente. Ma insultare, ti ha detto che sei brutto, dai. Ma non Mauro, mulo, diglielo da Tole per favore, molto antipatico. Giustamente, no, la mia Filippina, giustamente dice: questo è mulo da Mantova, non Mauro, mulo. Diglielo da Tole per favore, molto antipatico questo, mulo da Mantova, mulo. Brava sta Filippina, bravissima, bravissima. Che dice? Che dice? Aspetta, che dice la Filippina? Dottore Palenzo, questo è mulo da Mantova, non Mauro, mulo. Diglielo, dottore, per favore, molto antipatico. Ma ti sei visto lo specchio? Ma è la Filippina che ha detto questo? No, è la Filippina. Sì, cosa gli hai dato la mancia per dire delle cazzate? Ma dai, no, scrive lei sei automaticamente. Sei nel contratto. Oltre che contratto. È ripugnante, scrive. Sei imbarazzante. Ma tanto prima o poi gli schiaffi da me li prendi. Hai capito? Ma ti hanno tamponato? hanno tamponato e non ti hanno schiacciato, non ti hanno ammazzato. Che peccato, sei stato, sei no, stato questo non è bello, questo non è bello, dai, questo no, non no, è bello. No, vabbè, se ci andavo lo so io, facciamo la retromarcia per paura che restasse mio. Questo è pazzesco. È brutto. Ma non gira tutto quella patente, gliel'hanno ritirata questo qua, patente, spero. Ascolta, credo che gliel'hanno ritirata la patente. Gliel'hanno ritirata la patente, sto qua. Non ce l'ha la patente, non ce l'ha. Non ce l'ha, per forza. Ascolta, meno male. Fa? Perché non hai la patente? Gliel'hanno ritirata questo qua. Perché non hai la patente? Meno un pericolo in meno per strada. Ma che cazzo dici? Ma che c'ho la C io? Io c'ho la C. Ma perché hai i capelli gialli poi, questo qui? Io ho visto delle foto agghiaccianti. Hai i capelli marron? Marron. Che li avevi nel 2009? Ma perché hai i capelli gialli? Ma di cosa vuoi parlare? Ma non è un crimine, lo dico con polemica. Ma non lo dico con polemica, ma lui si tinge i capelli. Andate a vedere Mauro da Ma. Io invito gli ascoltatori della Zanzara a vedere che faccia c'ha questo qua. E che la domanda semplice, non polemica, che faccio, ma perché si li tinge? Tu non sei in grado di fare domande. Ma te li tingi quei capelli? Ma come mai sei così? Perché? Ma tu sei un coglione. Ma perché sei ridotto così? Ma perché? Vabbè, gli occhialoni brutti, mamma mia, impresentabile. Di cosa vuoi parlare? Di cosa? Allora, mamma mia, caffone, adesso si sta riappianando. Scarpe da ginnastica, poi ma con quei jeans. Ma non sei un ragazzino, vestiti come una persona normale. Come, come no? I vecchi imprenditori anni 70, ti vedi. Andate a vedere, andate a vedere, andate a vedere, giudicate voi. Andate a vedere, andate a vedere. Ma non è che sono un pagliaccio. Su, dai, chiedimi la mattina. Non però ti ha colto, ti ha pizzicato in un punto dolente, Mauro. Perché sei molto irascibile su questo. Vedo che sei incazzoso su questo. I capelli. L'aspetto gialli, fisico. Capelli gialli. No, aspetto fisico, poverino, mi dispiace, ma hai questi capelli gialli. Ma perché, ma poverino? Certo, perché che come è grottesco, come... è grossier. No, ecco, è una persona grossier. Che è a fianco, perché lei è basta. Grossier. Sa cosa vuol dire la parola grossier, Mauro ma da Mantova? Ma non me ne fatto un cazzo! Lei non ho me capito, ne fatto un cazzo! Ma guarda, vado a vedere. Lei, se muori, ho capito, però... Va bene, però guardi su Google. Però sai guardi su Google cosa vuol dire la parola grossier. Sai lei che è una persona grossier. Oggi francesi ma perché sono bastardi come te. Ma perché, ma perché? No, ma le dico solo questo, guardi, poi chiudiamo qua, tanto dobbiamo andare a casa. Grossier, scritto grossier. Ma vada a vedere in francese cosa vuol dire grossier. Lei è un po' grossier, un po'. Ma perché c'è così, c'è impazzito grossier. È impazzito, è impazzito. Guardi che però è una parola grossier, è una parola, ma non l'ho offesa più di tanto. Non mi sembra, è una bella, non mi sembra di averla offesa. Guardi, la parola grossier in francese, scritto grossier, significa rozzo, grossolano, volgare. Perché non vai da Lemme? Perché non vai da Lemme a dimagrire? Perché non vai da Lemme? Rispondimi a una domanda. Se lui non fosse andato via Radio 24 grossier, alla 7, è grossier. Che cazzo avrebbe fatto nella vita? Che non niente, nulla. Quel pannullone. Nulla, nulla, mantenuto da papà. Mantenuto dal papà, niente, assolutamente niente. Pannullone, un incapace. Beh, fannullone, però no. Un per dire, mi sono alzato alle 6, sono andato a Milano, sono tornato. Fannullone, no. Questo grossier, devi dire grossier. Lei è grossier, però, ma è molto grossier. Nella... Ma perché ringhia? Vada, ma 7 milioni no, quella macchinetta lì era una semplicissima Ford B-Max. Guardi, Daniele da Roma, che... il medico ti ha detto grossier. Che devi dimagrire, vai da Lemme. Lei è grossier, vada a vedere cosa significa questo aggettivo, grossier. Daniele da Roma, dai Daniele. Ciao, dimmi, ciao Daniele. A tutti. Ecco. No, nulla, io ho chiamato perché prima, mentre sentivo la radio, ho sentito Parenzo che faceva la sua considerazione sulla medicina. Sì. Che non è Wikipedia in merito ai vaccini. Non ci si cura con Wikipedia. Non ci si cura con Wikipedia. Vabbè, allora non Daniele, cosa c'entra? Sei a favore o contro i vaccini? Io sono assolutamente contrario ai vaccini. Ecco. Hai figli? Hai figli? Sì, ho due figli. E spero vaccinati. E uno a seguito di un vaccino ha avuto diversi problemi. Questo mi dispiace, ma forse dipende dal fatto che magari ogni vaccino va calibrato in base alle persone, ovviamente. Magari è allergico a uno di quegli, a uno di quelle che componenti, ma non è che il vaccino di per sé sia negativo. Ha avuto delle convulsioni febbrili. Che inizialmente sono state scambiate per ovviamente per attacchi epilettici. Beh, adesso che cosa? No, capisco il suo, la sua stato d'animo. Ma... Il fatto si è fortunatamente poi risolto con il tempo. Ma quello che non capisco, Parenzo affermava, dimmi. Che I medici che fanno? I medici che affermano che i vaccini devono essere fatti e l'obbligatorietà è giusta, sono quelli che dicono il vero? Cioè, non è la trasmissione Dica 33 o altre. Su, ma che è il forum sui vaccini, questo qua? Ci sentiamo domani, dai. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Vergognati, testa di cazzo, ora che sai altro.